1. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Tra Mosca e l'Occidente tensione sempre più alta, la NATO prepara le truppe, la Russia minaccia risposte, mentre venerdì avranno il via libera le nuove sanzioni, Mogherini contro Putin. In Iraq, intanto, gli orrori commessi dall'ISIS entrano nei rapporti di Amnesty e dell'ONU, si parla di pulizia etnica sistematica. Si riparte dal lavoro, giovedì il Jobs Act approda al Senato mentre i dati mostrano un'occupazione ancora ferma nelle grandi imprese. Decine di tassisti e autisti italiani arrestati in Germania, l'accusa favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La commedia va sdoganata, la conferenza episcopale premia Carlo Verdone a Venezia. Devo tutto a mio padre, dice l'attore e regista ai nostri microfoni. Calcio, problemi per Osvaldo, convocato in nazionale Quagliarella. Giovedì la prova con l'Olanda. 5 milioni di telespettatori intanto per vedere Maradona e Baggio nella partita della pace. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Come sempre i contatti sono effettogiorno@radio24.it, la nostra email, c'è anche la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Se volete scriverci in corso di trasmissione, come sempre c'è il numero di SMS 349-238-6666. Tra gli altri argomenti che approfondiremo in questa edizione c'è la riforma della scuola. In questi minuti arrivano delle dichiarazioni di Matteo Renzi, dice non facciamo l'ennesima riforma, proponiamo un nuovo patto educativo. Sentiremo sulla base delle indiscrezioni che cosa ne pensa l'Associazione Nazionale dei Presidi. Intanto partiamo dall'estero e andiamo in Ucraina. È già cominciato il lavoro per individuare le nuove sanzioni alla Russia, dice Federica Mogherini alla Commissione Esteri del Parlamento Europeo. La decisione si prenderà venerdì e i settori interessati saranno quelli finanziario, delle armi e delle tecnologie, e si allungherà la lista delle persone e delle entità colpite. Le domande si susseguono, ora garbate, ora meno, come quelle sulle sue presunte simpatie per Mosca. La Russia non è più un partner strategico della UE, risponde trasversalmente Mogherini, ma un attore strategico sulla scacchiera internazionale. Con la leadership ucraina non ci sono difficoltà, conclude il ministro, il problema è il conflitto in corso nei confini ucraini. Conflitto che, secondo fonti del tedesco Der Spiegel, la NATO considera già perso per Kiev, che potrà al massimo trattare un ritiro onorevole. Al vertice di questa settimana in Galles, l'Alleanza Atlantica discuterà comunque di armare l'Ucraina e probabilmente deciderà anche di rafforzare la sua presenza a est, a scopo dissuasivo. L'Occidente soffia sul partito della guerra, accusa il ministro degli esteri russo Lavrov. L'esercito russo si riposizionerà per fronteggiare questa nuova minaccia, dice un consigliere del Cremlino. Secondo l'ONU, le vittime del conflitto sono già oltre 2.600 e 260.000 gli sfollati. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E più avanti nel corso di Effetto Giorno torneremo sul tema dell'Ucraina per vedere di analizzare la situazione. In Iraq adesso, dove si moltiplicano le testimonianze e le voci che raccontano delle atrocità commesse dall'ISIS nelle zone occupate e ai danni delle minoranze. Ultimo rapporto, quello di Amnesty International. Minoranze etniche e religiose, ma anche interi gruppi familiari, donne e bambini, nessuna pietà. Gli jihadisti sunniti dello Stato Islamico hanno lanciato una campagna di sistematica pulizia etnica nel nord dell'Iraq. Questa è la denuncia di Amnesty International, che ha raccolto nuove prove delle atrocità nel rapporto intitolato Pulizia etnica di dimensioni storiche. Ad agosto, nella zona di Sinjar, sono avvenute infatti numerose uccisioni di massa. Due delle più sanguinose hanno avuto luogo quando lo Stato Islamico ha razziato i villaggi di Kinive e Kocho, rispettivamente il 3 e 15 del mese. Centinaia di persone sono state uccise solo in questi due villaggi. Gruppi di uomini e ragazzi, anche di soli 12 anni di età, sono stati rastrellati, portati via e uccisi. Non c'è stato alcun ordine, sono arrivati e hanno riempito i loro veicoli di gente, ha dichiarato da Amnesty uno dei sopravvissuti. Da quando lo Stato Islamico ha preso il controllo dell'area si sono infatti susseguite rappresaglie per eliminare ogni traccia di opposizione di popolazioni non arabe e non sunnite. Soltanto ieri l'annuncio dell'ONU di una missione in Iraq per investigare su quelli che, senza mezzi termini, ha definito crimini di guerra. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E c'è una notizia di poco fa che arriva dall'Iraq. I familiari di soldati iracheni scomparsi nel giugno scorso in una base militare conquistata dall'ISIS hanno dato l'assalto oggi al Parlamento di Baghdad per protestare contro la mancanza di notizie. Un membro del Parlamento ha riferito che l'assalto ha provocato alcuni feriti. Aggiornamenti naturalmente quando ne avremo. Veniamo alla politica italiana. Il giorno dopo la presentazione del famoso programma dei 1000 giorni e con le parole che stanno arrivando in questi minuti di Matteo Renzi sulla riforma della scuola che dovrebbe essere varata domani. Facciamo il punto con Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Renzi lancia i 1000 giorni e piovono chiaramente le critiche delle opposizioni. Intanto stamattina il Premier interviene sulla riforma della scuola, come hai annunciato tu, che definisce un nuovo patto educativo e che verrà presentato domani sul sito passodopopasso.italia.it. 1000 asili in 1000 giorni per combattere anche la dispersione scolastica e promuovere le pari opportunità. Ma intanto ricordiamo che al centro dell'agenda di governo c'è un'altra riforma, quella del diritto del lavoro. Da giovedì il Jobs Act approderà in commissione al Senato e nella mente del Premier c'è il modello tedesco, un mix di sostegno e formazione e solo alla fine si va verso il sussidio. Tanto che oggi l'ex ministro del lavoro Elsa Fornero spiega alla stampa che Renzi ha ripreso il loro obiettivo. L'obiettivo quindi del governo Monti, ma il Premier ha assicurato che non toccherà l'articolo 18, si andrà verso un sistema di tutele crescenti. Cauta Forza Italia, oggi Silvio Berlusconi riunisce i suoi, mentre Beppe Grillo attacca con Renzi, tassa dopo tassa l'Italia affonda, e nel Movimento 5 Stelle gli fa eco Luigi Di Maio che si chiede cosa importerà agli italiani dei 1000 giorni quando tra poche settimane dovranno pagare IRPEF, IVA, IRAP e Tasi. Le cose importanti, dice Di Maio, si possono fare in 1000 ore, ovvero 40 giorni, non in 1000 giorni. A te Simone. Grazie alla nostra Elisabetta Fiorito e veniamo all'analisi della situazione politica. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Simone. Quindi si riparte, ci sembra di capire, dal lavoro che è come dire, il tema che più crea frizioni o quantomeno problemi all'interno della maggioranza, ma forse è il tema più importante da portare in Europa. Sì, assolutamente, è il punto cruciale, quello che l'Europa ci chiede prima di ogni altra cosa ed è quello su cui il governo deve, secondo me, centrare tutti i suoi sforzi. Perché al di là della retorica dei 1000 giorni, che è soprattutto diciamo un fatto mediatico, quello che conta è che si dia la percezione che esistono delle priorità. In questo momento la priorità è il lavoro, questa è la riforma che serve al Paese, e se ci sono dei nodi politici è il Presidente del Consiglio che li deve sciogliere con la sua autorità e anche con quello che resta del suo carisma, che indubbiamente è rilevante. Poi ci sono i problemi della giustizia civile e i problemi della scuola, ma il lavoro rimane in questo momento cruciale. Non ci sono 1000 giorni per tutto questo, ce ne sono molti meno, ci sono diciamo pochi mesi nei quali l'Italia deve riuscire a trasmettere all'esterno un'immagine di risolutezza e anche la sua opinione pubblica, che aspetta da tanto tempo l'idea che qualche cosa di concreto si sta facendo. Grazie, grazie anche per oggi a Stefano Folli. E come sentivate, il nodo centrale è il lavoro, intanto continuano ad arrivare su questo fronte segnali negativi. Ci colleghiamo con Vincenzo Miglietta in diretta da Montecitorio. Vincenzo, eccoci. Sì Simone, buongiorno. Segnali negativi che persistono per il mondo del lavoro, in questo caso parliamo dell'occupazione nelle grandi imprese, aziende con almeno 500 dipendenti. A giugno il numero degli occupati resta allora fermo su maggio, mentre su base annua si registra ancora un calo, diminuzione però, e questo è l'unico aspetto positivo che tende a rallentare rispetto allo scorso anno. Segnala l'Istat, la diminuzione all'ordo dei dipendenti in cassa integrazione risulta pari allo 0,8% ed è questa la discesa più contenuta da agosto-settembre del 2012. turci, accendendo poi un faro sui diversi settori. La diminuzione tendenziale più marcata si registra nelle costruzioni, -4,7%, in controtendenza invece i comparti della fornitura di energia elettrica e gas, +1,7%, delle attività professionali scientifiche e tecniche, del commercio all'ingrosso e al dettaglio, +0,6%. Per chiudere, Simone, un dato interessante riguarda il peso delle buste paga. La retribuzione lorda per ora lavorata a giugno registra una diminuzione dello 0,5 su maggio, mentre anno su anno la retribuzione lorda aumenta del 2,2% e il costo del lavoro cresce dell'1,6%. Ed è tutto. E grazie al nostro Vincenzo Miglietta. Alla cronaca, la vicenda del 26enne bloccato ieri sera dai carabinieri e dalla polizia dopo che si era girato per circa un'ora nel centro storico di Iesi minacciando i passanti con due macete rubati in un'armeria. La notizia di questa mattina è che era stato arrestato poco tempo fa per aver preso a testate un carabiniere, ma era subito tornato in libertà. Maggiori dettagli verranno forniti oggi dalle forze dell'ordine in una conferenza stampa. E veniamo ai due Marò. Dopo il malore di ieri di Massimiliano Latorre, la vicenda torna sotto i riflettori. Sta migliorando, ma la situazione è seria e delicata. L'ictus è in una zona profonda del cervello e Massimiliano non ha ancora recuperato al 100%. È Alessandro, il fratello di Salvatore Girone, a raccontare le condizioni di Massimiliano Latorre, colpito ieri da ischemia cerebrale e ricoverato nel reparto di neurologia di un ospedale di Nuova Delhi. La notizia del malore di Latorre, accusato insieme a Girone della morte di due pescatori indiani nel febbraio del 2012, è arrivata immediatamente in Italia, creando seria preoccupazione nel governo. Tant'è che il ministro della difesa Pinotti si è messa subito in viaggio per l'India insieme a medici italiani per constatarne le condizioni di salute, mentre il ministro degli esteri Mogherini ha ribadito la volontà di riportarli a casa. È una priorità, ha detto il neo alto commissario europeo. Ma intanto il dibattito si infiamma. Prima le parole della figlia del militare Giulia, che su Facebook ha sfogato ieri tutta la sua rabbia e che oggi torna a scrivere: scendete nelle piazze, liberate il mio papà. Poi le polemiche politiche, senza nulla togliere alla ministra Pinotti, dice la russa, chiediamo che sia il premier Renzi in persona a volare immediatamente in India. La soluzione in ogni caso per i due Marò sembra ancora lontana. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Si registrano i primi effetti della desecretazione di una serie di atti da parte del governo ed emergono nuovi dettagli, nuove carte sulla strage di Ustica. I documenti sono ora accessibili, una parte almeno. La verità dentro quelle carte però non c'è e l'articolo di Repubblica lo premette subito. Il muro di gomma invece è lì. Comunicazioni, richieste, negazioni, false indicazioni. Nel cielo di Ustica il 27 giugno del 1980 successe qualcosa che qualcuno ha voluto nascondere. Nel 92 l'ambasciata del Cairo informò il Ministero degli Esteri che il giudice Priore aveva chiesto e ottenuto che fosse interrogato dagli egiziani l'allora ex primo ministro libico, il quale confermò che l'aereo dell'Itavia era stato bombardato da un aereo libico per volere di Gheddafi. Il colonnello era trattato con molta cautela dai nostri esecutivi e lo dimostra uno scritto del febbraio dell'80 in cui l'allora titolare della Farnesina temporeggiava sulla richiesta di una visita di Gheddafi in Italia. Dopo la strage del 19, o forse negli stessi giorni, cadde un MiG libico in Calabria. In quel caso le autorità italiane assecondarono ogni richiesta di Tripoli. Ma Roma chiese informazioni anche a Francia e Stati Uniti. Gli americani negarono qualsiasi attività nell'area nella notte del 27 giugno, smentiti però dallo stesso comandante della portaerei statunitense Saratoga, che affermò di aver visto passare molti aerei sul radar. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'FBI ha fatto sapere che sta indagando sul caso delle celebrità le cui foto nude sono state prese di mira da un hacker e pubblicate sui social media. E l'FBI stessa non ha rivelato quali azioni ha intrapreso, mentre la Apple ha fatto sapere di aver avviato una propria indagine per scoprire se l'account iCloud è stato effettivamente hackerato per rubare gli scatti. Restiamo sul cinema. Sdoganare la commedia che risente spesso di un pregiudizio intellettuale. Le parole sono di Don Ivan Maffei, presidente dell'Ente dello Spettacolo, che è una fondazione della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, che ha quindi scelto per il premio Bresson, nell'ambito della Mostra del Cinema di Venezia, Carlo Verdone. Lo ha intervistato Carlo Verdone, non Don Ivan Maffei, la nostra inviata Marta Cagnola. Se sono qui lo devo innanzitutto alla grande figura di mio padre, che è stato un grande educatore è stato un grande padre, ma è stato anche un grande educatore. E fu lui a regalarmi la prima tessera per il film studio nel 1969, voleva che mi facessi una bella cultura cinematografica, vedeva che mi piaceva il cinema. E mi fece inserire all'interno dell'università la materia della quale poi lui sarebbe diventato docente, che è storia critica del film. Insomma, alla fine è stato un grande padre, quindi a lui, all'affetto, anche alla severità dei giudizi che ha sempre avuto nei miei film. Voleva sempre più poesia, la risata va bene, ma se non metti poesia e ritmo, ritmo e poesia, mi diceva, oltre che le risate. Quindi dedicato a mio padre, dedicato a Sergio Leone, che è stato il mio primo produttore a credere in me. Lo potevo dedicare a Felice Colaiacomo e a Franco Poccioni della vecchia Medusa cinematografica, perché furono loro poi realmente a tirare fuori i soldi per il mio film. E poi a Franco Rossetti, che è un regista di Siena, che fu l'unico ad accogliermi come assistente alla regia. Tutti quanti mi avevano chiuso le porte in faccia. Poi negli anni tutte queste persone che mi avevano chiuso le porte in faccia venivano da me a chiedermi lavoro, e io gliel'ho dato uguale. Carlo Genta, ciao. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Parto da un sms di un ascoltatore, si chiama Sebastiano, e dice: se Maradona e Baggio avessero la stessa età di Ronaldo e Messi, quale sarebbe la coppia più forte? Per nostalgia voterei la prima, forse nemmeno per nostalgia, proprio per livello di classe forse. Per livello di classe certamente, Maradona per me è il più forte giocatore della storia. Chiaramente sono divertenti i discorsi da bar, sono paragoni epocali che non hanno... Che sono giusto delle suggestioni. Detto ciò, 5 milioni di persone ieri per vedere la partita della pace e per vederli in campo. Sì, tra 10 anni saranno gli stessi, perché sono icone del nostro tempo, non moriranno mai, e dunque quello che succede, anche se sappiamo, non è calcio vero, però è una grande suggestione, è un concerto dei Rolling Stones, è semplicemente un grande evento nel quale il calcio gioca un ruolo marginale. Anche forse un modo per divertirsi e vedere com'è ridotto Maradona o com'è ridotto Baggio. Sì, una curiosità perversa, ti dici. Una forma di curiosità perversa. Senti, sul calcio invece, quello almeno che giocheremo tra poco, c'è la nazionale che si avvia verso la partita, sì, contro l'Olanda. Sì, c'è la nazionale che si avvia verso questa partita, c'è il debutto di Conte, c'è grande attenzione, curiosità, interesse, una grande apertura di credito nei confronti del nuovo allenatore della nazionale. Poi in questi giorni continua a rimbalzare come un ritornello la polemica, i pensieri cupi secondo cui sono pochi italiani in Serie A, eccetera. Però insomma, la verità è che siamo in un momento di particolare depressione. Io resto convinto del fatto che il materiale a disposizione di Conte sia una buona base di partenza. Mi piace anche vedere giovani giocatori italiani, Verratti ha aperto la strada. Ieri c'è stato il passaggio di Cristante, giovane giocatore del Milan, al Benfica, quindi un club che in questo momento è in prima fascia in Champions League, giocherà la Champions League probabilmente da titolare. Beh, mi piace vedere i nostri ragazzi che vanno a giocare in club importanti e con ruoli importanti. Immobile è un altro, possiamo aggiungere anche Balotelli, probabilmente questo è il modo migliore per crescere per loro e per la nazionale. Se noi non siamo in grado di offrire queste opportunità, trovo interessante che queste opportunità vengano cercate all'estero. Dopo la fuga dei cervelli, la fuga dei piedi, tutto sì. Questo e altro, naturalmente tutti convocati a partire dalle 14, intanto il traffico. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Tra Mosca e l'Occidente la tensione è sempre più alta, la NATO prepara le truppe, la Russia minaccia risposte, mentre venerdì avranno il via libera le nuove sanzioni Mogherini contro Putin. I familiari dei soldati iracheni scomparsi hanno assaltato il Parlamento, si parla di feriti. Intanto gli orrori commessi dall'ISIS entrano nei rapporti di Amnesty e dell'ONU, si parla di una pulizia etnica sistematica. Si riparte dal lavoro e dalla scuola. Giovedì il Jobs Act approda al Senato. Renzi intanto dice: non facciamo l'ennesima riforma della scuola, proponiamo un nuovo patto educativo. Decine di tassisti e autisti italiani arrestati in Germania, l'accusa favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Approfondiremo questo argomento nella seconda parte della trasmissione. Intanto saluto Giorgio Rembado, che è presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Buongiorno professor Rembado. Altrettanto a lei. Allora, con lei naturalmente per parlare delle ipotesi che circolano al momento sulla riforma della scuola. Il Presidente del Consiglio ha chiarito che domani alle 10 illustreranno le linee guida proprio sul sito creato ieri, o annunciato ieri, passodopopasso.italia.it. Oggi alcune indiscrezioni parlano di un'ipotesi di preside sindaco, per così dire, che coordina il lavoro della scuola, cura i rapporti con il territorio e con il volontariato e poi si occuperà anche di rapporti con le aziende. L'idea è far sì che le aziende possano pescare all'interno delle scuole degli studenti ai quali far fare degli stage. Vi convince quest'idea? La convince quest'idea? Sì, è un'immagine che ben si attaglia alla figura del preside. Lei pensi che per caso ci sono gli stessi numeri, i dirigenti delle scuole in Italia arrivano a 8.000 e mi pare che grosso modo 8.000 siano i comuni con i sindaci, ma a prescindere dal paragone numerico. Entrambi sono i rappresentanti di un ente autonomo, i comuni sono gli enti territoriali per eccellenza e le scuole sono autonomie funzionali, quindi anche da questo punto di vista c'è un contatto molto stretto e soprattutto ci sono per i compiti che ciascuno dei due soggetti svolge all'interno della propria autonomia territoriale o funzionale. E quindi questa ipotesi, appunto, che le aziende, perché a volte il mondo della scuola si chiude su queste cose, no? La possibilità che le aziende possano pescare tra gli studenti, chiamarli per fare degli stage, insegnargli un lavoro, le sembra una buona idea, tutto sommato? Sicuramente, prima che buona, necessaria. Anche per affrontare la gravissima crisi economica e i tassi di disoccupazione giovanile spaventosi del nostro paese. Comunque è vero quello che lei diceva prima, è vero che c'è stato talvolta in passato un atteggiamento sospettoso da parte delle scuole nei confronti delle aziende, del mondo aziendale. Ecco, questo tipo di sospetto, di sfiducia reciproca dovrà cadere, naturalmente come tutti i cambiamenti culturali richiederà tempi non brevissimi, ovviamente. Senta, io so che è un po' come chiedere all'oste se il vino è buono, però ritiene che, come dire, tra i suoi associati la professionalità sia abbastanza elevata da svolgere questo compito? Chiaro che no, non sto parlando della media, ma immagino ci siano anche molti buchi da questo punto di vista, perché a questo punto diventa un lavoro ancora più complesso. Sicuramente, e da questo punto di vista bisognerà prevedere anche nuove modalità di reclutamento o di assunzione, che dir si voglia, del personale dirigente delle scuole. Da questo punto di vista abbiamo un'occasione importante, che è quella di definire un nuovo regolamento per le assunzioni o per i concorsi per assumere nuovi dirigenti. È un'occasione che deve essere coerentemente colta assieme a quella dei cambiamenti che attualmente sono in discussione. Senta, e quelli che già ci sono e non sono capaci di fare questo lavoro? Ma guardi, mi faccia dire no, che... lo dico perché arrivano anche già degli sms, insomma, di ascoltatori, probabilmente genitori magari anche, che ci dicono un grosso problema è che molti presidi non sono all'altezza. Guardi, mi faccia dire, ora non entro nel merito del giudizio complessivo, che è sempre sbagliato, quindi non, ma che c'è nell'ambito della categoria dei dirigenti un turnover elevatissimo. Lei pensi che grosso modo, anche per ragioni di età anagrafica naturalmente, lei pensi che grosso modo il 10% all'anno va in pensione e quindi c'è la necessità di un continuo rinnovamento dei quadri dirigenziali della scuola attraverso appunto nuovi concorsi che dovranno essere nel futuro garantiti almeno uno all'anno, quindi c'è veramente un turnover. E quindi i criteri di questi concorsi, lei dice, devono essere stringenti da questo punto di vista, cioè prevedere un'indicazione di quelle capacità per dare quel tipo di gestione alla scuola. Il che vuol dire potenziare molto di più le capacità manageriali, che vuol dire naturalmente potenziare ancora di più la consapevolezza che il dirigente della scuola è un dirigente gestionale a pieno titolo, che deve avere da questo punto di vista tutti gli strumenti e i poteri per poter svolgere la sua funzione. La ringrazio, grazie a Giorgio Rembado, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, e saluto un altro docente, però di universitario in questo caso, di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano, commentatore ed editorialista del Sole 24 Ore, non è la prima volta del nostro ospite, parlo di Vittorio Emanuele Parsi. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Per parlare con lei invece naturalmente di Ucraina, abbiamo sentito parlare di guerra, non so con quanta convinzione, con quanta leggerezza ieri, tanto dal premier polacco Tusk, che adesso va ad assumere un ruolo importante anche all'interno dell'Unione Europea, quanto da Kiev. Quanto c'è di propaganda, professor Parsi, secondo lei, in tutto questo, e quanto c'è invece un rischio di un'estensione del conflitto? Ma direi che sicuramente c'è un elemento propagandistico, o se vuole c'è un elemento di enfatizzazione e anche di disvelamento per alcuni aspetti di quello che sta succedendo, perché non va dimenticato che noi siamo tutti un pochino all'interno di un'ipocrisia che ci fa molto comodo, che è quella appunto che in Ucraina ci sia sostanzialmente una guerra civile in corso e non ci sia invece anche un intervento militare russo, sempre meno, diciamo così, sospetto, se ne è più certo, di alcune migliaia di soldati all'interno di un paese altro. Quindi da una parte c'è questo tentativo di chiamare le cose col loro nome, per così dire, per evitare che gli europei soprattutto, ma in parte anche la NATO, possano, diciamo così, autorassicurarsi e quindi non adottare misure più drastiche. Dall'altra parte evidentemente c'è il fatto che però non si può pensare di scatenare una guerra mondiale di fronte a un fatto come questo, che non significa che non siano allo studio possibili opzioni militari come quelle appunto di rafforzare il dispositivo della NATO nei paesi vicini all'Ucraina ed eventualmente in caso di invasione vera e propria dell'Ucraina da parte della Russia, di inviare truppe nella parte, diciamo così, occidentale del paese a costituire una forma di corso sanitario. Queste sono le opzioni realistiche, più difficili da immaginare chiaramente allo scopo di una guerra vera e propria, però la guerra c'è già di fatto. E senta, le sanzioni che verranno rafforzate venerdì, poi appunto l'invio oggettivo, insomma praticamente provato, di truppe russe nell'est dell'Ucraina, le sembra che un'opzione politica sia ancora davvero possibile? Intanto le opzioni politiche non escludono appunto l'utilizzo, l'abilitazione, diciamo così, degli strumenti militari, perché non c'è questa dicotomia nella realtà. Nella realtà appunto l'opzione militare fa parte e va inquadrata all'interno di un'opzione politica. È chiaro che se per opzione politica intendiamo chiacchierare il più del meno, sostanzialmente lasciando fare a Putin quello che vuole, questo non è possibile secondo me, al di là del costo economico di inasprire le sanzioni per fonte della Russia. Questo va chiarito, anche perché noi non possiamo i giorni dispari piangere perché l'Unione Europea non ha una presenza politica internazionale significativa, che ci fa comodo anche in termini economici e commerciali in tanti altri settori, e invece poi nei giorni pari rinunciare a qualunque cosa per salvare le mortadelle, con tutto il rispetto per le mortadelle, per carità di Dio, però certe cose non sono negoziabili, perché dopo un personaggio come Putin, che non va dimenticato, rappresenta un'eccezione nel modo di comportarsi, bisogna andare veramente ai tempi dell'Unione Sovietica o della Germania nazista per trovare qualcuno che ha responsabilità politiche di primissimo livello, che mentre sta facendo una cosa sostiene esattamente il contrario, ed è quello che sta succedendo con la Russia di Putin. Putin ha invaso effettivamente un pezzo dell'Ucraina e continua a dire che non è vero. Capisce che di fronte a questo, se non c'è una reazione molto dura, molto forte, il rischio è che poi non ci sia più nessuno spazio di dialogo, perché con i bugiardi, lei mi insegna, è inutile parlare, più che impossibile. Grazie al professor Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. A Paolo che ci scrive: noi invece che gli abbiamo organizzato la rivoluzione siamo esenti da colpe, vero? Fate informazione. Paolo, delle colpe dell'Unione Europea, non solo dell'Unione Europea, abbiamo parlato tantissime volte. Adesso stiamo cercando di analizzare la situazione, cercare di prevedere con mille difficoltà le possibili evoluzioni. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Iraq, Amnesty International parla di pulizia etnica sistematica. I familiari di soldati iracheni scomparsi hanno assaltato il Parlamento, appunto, iracheno, e ci sarebbero dei feriti. Non facciamo la riforma della scuola, proponiamo un patto educativo. Così Renzi, che annuncia la pubblicazione per domani del piano. La Germania sosterrà Frontex Plus, il nuovo sistema di controllo delle frontiere, lo ha annunciato il ministro dell'Interno Angelino Alfano in visita a Berlino. La NATO prepara le truppe, siamo in Ucraina, la Russia minaccia risposte, mentre venerdì avranno il via libera alle nuove sanzioni. Mogherini contro Putin. E siamo alla borsa. Borse in diretta. Ed è una giornata positiva, oggi FTSE MIB più 0,78%, FTSE All Share più 0,74%, lievemente più debole il resto d'Europa, Parigi guadagna appena lo 0,05%, Francoforte lo 0,43%, Londra lo 0,01%. Guido Maurino, Radio Corriere 24 ore, buongiorno. Buongiorno. Allora, abbiamo detto in guadagno, ma lontano dai massimi, si era arrivato a guadagnare quasi 1,5% in mattinata, no? Sì, leggermente scesa negli ultimi 10-20 minuti, pesano anche le attese rispetto all'apertura di Wall Street che hanno portato un po' a limitare i guadagni in questi ultimi 10-20 minuti. Ecco. Euro contro dollaro a 1,3117, mentre invece, e qua l'aggiornamento sul cambio è dovuto perché l'euro continua a calare, per quanto riguarda i singoli titoli da segnalare Luxottica che cede l'1,13%. Sì, Luxottica inaugurava oggi l'era del dopoguerra, dopo le dimissioni e l'uscita più che le dimissioni dell'amministratore delegato Andrea Guerra. Ieri il CDA ha varato il nuovo assetto che prevede una specie di triunvirato con due amministratori delegati e il presidente e fondatore del gruppo Leonardo Del Vecchio con un ruolo più operativo. Oggi la borsa ha reagito non benissimo al nuovo riassetto, che peraltro era in gran parte noto, anche perché ci si interroga sull'opportunità e sulla gestione di due amministratori delegati all'interno del gruppo e a come riusciranno a coesistere. Unipol SAI giù dello 0,6%, Ferragamo di mezzo punto percentuale, Enel dello 0,4%, dello 0,12%, Telecom Italia, Atlantia dello 0,05%, tutti gli altri titoli in positivo a partire da Mediolanum più 2,95%, Tenaris più 2,5%, Autogrill più 2,4% e TOTS più 2,09%. Grazie Guido Maurino e buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E veniamo a parlare di una vicenda particolare che ha a che fare col tema dell'immigrazione. Che cosa succede? Non è la prima volta che avviene in realtà nell'ultimo anno e non solo. Succede che alcuni conducenti di auto, di quelli degli NCC, noleggio con conducente, si sono trovati arrestati in Germania perché trasportavano degli immigrati e quindi con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Oggi sono uscite altre notizie che riguardano un gruppo addirittura di decine di persone che vengono dalle province di Vicenza o dalla provincia di Brescia. Saluto Mauro Ferri, che è presidente dell'Anitrav, l'associazione noleggio con conducente. Buongiorno Ferri, benvenuto. Buongiorno. Allora, buongiorno. Di quanti casi siete a conoscenza voi di questo tipo? Guardi, noi abbiamo avuto due casi della Lombardia, di due imprese lombarde che sono state praticamente due noleggiatori che sono stati di fatto arrestati e ancora devono esserci, credo, i processi, perché poi li abbiamo messi in contatto con un legale che li ha seguiti. Allora, prego. Dico, poi oggi siamo venuti a conoscenza di questa terzo noleggiatore e anche una situazione che viene coinvolta anche dei tassisti. E come funziona il meccanismo? Ce lo spiega? Ma guardi, ora poi bisognerà capire effettivamente, ci saranno le indagini, adesso io poi questo vedremo, però normalmente una cosa che tengo a dire è che stiamo parlando di Europa su Europa, cioè tenendo presente il concetto di libera circolazione di beni, servizi e persone, noi possiamo dire che partendo da Roma, faccio un esempio, o partendo da Milano, dalla stazione di Milano, andando a Berlino, andando a Vienna, il noleggiatore, il conducente del mezzo non è che ha né il diritto e né il dovere di dover accertarsi dell'identità reale dei propri passeggeri. Cioè, voglio dire, se un profugo siriano, facciamo un esempio, sbarcato a Lampedusa, trasferito o fuggito dai centri d'accoglienza, prende un treno, nessuno gli chiede nulla, arriva a Milano, monta su un'autovettura, la prenota attraverso internet, attraverso un sistema di prenotazione naturale, sì. Quindi prenota il mezzo. Lei dice, ho capito, lei dice l'autista non ha il dovere di chiedergli i documenti, non ha nemmeno il diritto di chiedergli i documenti. Aspetti, mi aspetti un attimo là. Cristiana Bianco, avvocato e legale di alcuni, non so quanti, e naturalmente i nomi non li può fare come è evidente, perché che sono di alcuni italiani che sono stati arrestati per questo motivo. Avvocato Bianco, la saluto, buongiorno. Salve, buongiorno. Dunque, prima di tutto io comunque sono un avvocato sia in Italia che in Germania, quindi conosco la normativa di entrambi i paesi. Allora sì, noi abbiamo avuto vari casi di appunto noleggio con conducenti, tassisti che sono stati arrestati per questo motivo. Ora i presupposti diciamo in Germania sono diversi, perché la normativa in Germania prevede che comunque nel momento in cui si portano queste persone, loro comunque hanno il dovere di almeno sapere se queste persone possono legalmente viaggiare, perché persone che vengono da alcuni paesi hanno bisogno del visto comunque, per esempio, oppure comunque di un documento valido, di un titolo di soggiorno, e anche se in Italia è diverso, in Germania loro ritengono che c'è comunque un dolo eventuale, nel senso nel momento in cui la persona prende queste persone in carico prende anche il rischio del fatto che possano essere illegali. Ora il problema più grave secondo me è che loro restano in carcere fino a attesa del processo, cioè questo è l'inghippo sbagliato, cioè la parte diciamo secondo me appunto riprendendo un po' quello che diceva il signor Ferri, cioè loro sono italiani o francesi, spagnoli, quello che sia, i miei clienti sono tutti italiani, arrivano in Germania, vengono fermati, la polizia fa un controllo, trovano che le persone sono illegali e l'autista viene arrestato con l'accusa di favoreggiamento di immigrazione clandestina. Nel momento in cui interviene, prima di tutto vengono portati comunque, fanno interrogatori di polizia senza la presenza dell'avvocato, questa è una normativa tedesca che è diversa dall'italiana, vengono portati alla convalida e all'arresto senza l'avvocato, anche questa è una normativa tedesca diversa dall'italiana, dopodiché quasi sempre non vengono scarcerati, in Germania c'è la possibilità di pagare una cauzione, per esempio essere scarcerati pagando una cauzione e poi tornare per processo, perché in Germania non esiste il processo in assenza, cioè in contumacia come in Italia, no? Per cui le autorità tedesche partono dal presupposto che non, quindi per essere sicuri di poterli poter processare il processo, sì, perché per esempio loro hanno, io ho una fissa dimora in Italia, diciamo sono un tassista italiano, vivo in Italia, chiaramente in Germania non ce l'ho, partendo dal presupposto quanto carcere si possono fare, avvocata Bianco? Allora, normalmente io ho casi che riesco a risolvere, io veramente ne ho tanti di questi favoreggiamenti di immigrazione clandestina, alcuni sono veramente persone che appunto hanno, anche se sono quasi sempre l'ultima ruota del carro, nel senso sono giusto dei trasportatori, spesso anche una persona, una legge o un conducente viene contattato, non è detto appunto che sia contattato direttamente dal siriano o egiziano che è arrivato in Italia illegalmente, a volte è contattato dalla persona che si è presa i soldi da questa persona e che poi paga, certo. Semmai una persona che vive regolarmente in Italia e che fa questo come attività, però il tassista non lo può sapere. Allora, ci sono casi che riusciamo a risolvere in un mese, altri di persone sono rimaste in carcere anche 3 mesi in attesa del processo, perché se loro partono dal presupposto che nelle investigazioni di polizia ritengono che la persona possa aver fatto anche altri di questi viaggi, che può anche essere nel caso di un tassista con, diciamo, un noleggio di auto con conducente, le indagini durano un po' di più, quindi il tempo che si fa il rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero, cioè chiusura di indagini, rinvio a giudizio, poi il tempo di riuscire a trovare anche una data per un processo, possono rimanere anche 3 mesi. Io attualmente ho una persona, chiaramente come ho detto prima anche alla sua collega, io per diciamo segreto professionale, io non voglio parlare, diciamo, di chi siano i miei, certo, clienti, però ho una persona che attualmente è detenuta ed è già da 2 mesi è detenuta, e io diciamo non so quando riuscirò precisamente ancora a fissare il processo, perché le indagini non sono ancora chiuse. Mi scusi una cosa, per chiudere con Mauro Ferri, presidente dell'ANITRAV, associazione noleggio con conducente, non c'è possibilità di rifiutare un cliente, per così dire, o insomma nel momento nel quale uno si accorga che c'è qualcosa di sospetto? Ma guardi, allora, per quanto riguarda il noleggio con conducente sì, per il servizio taxi no. Okay. Perché la normativa italiana dà obbligo al servizio taxi di esercitare l'attività su richiesta, non può rifiutarsi il tassista. Quindi questo è, e poi non è detto che il noleggiatore debba fare un'indagine. Beh certo, no, questo lo comprendo. Un'ultima cosa per l'avvocato Bianco, veramente in 20 secondi, ma ha trattato anche casi di tassisti o i casi riguardano prevalentemente NCC? Prevalentemente NCC, ma anche tassisti. Ci sono stati anche tassisti. Ma comunque di solito è sempre un noleggio con conducente che va all'estero, di solito. E come ci diceva lei, può essere anche prenotato dallo stesso trafficante di uomini che fa arrivare la gente qua. Spesso, per esempio, una persona prenota un'auto per 4 persone per andare in Germania, paga anche regolarmente la fattura, semmai in anticipo, oppure si mette d'accordo e comunque la persona gli farà una fattura che poi pagherà un regolare indirizzo italiano, facciamo un esempio. Quindi comunque in quel caso è ancora più difficile per la persona che guida l'auto, appunto il noleggio con conducente, di pensare che si tratti di un favoreggiamento di immigrazione clandestina. Naturalmente. Comunque io dico, come avvocato, la cosa che secondo me è molto diciamo triste è il tema della detenzione. Allora avvocato, questo è chiaro, noi purtroppo dobbiamo chiudere. Saluto l'avvocato Cristiana Bianco e Mauro Ferri, presidente dell'ANITRAV. Ed è tutto per Effetto Giorno, un ringraziamento a Fabio Cantadori in regia, a Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre. Noi ci risentiamo tra poco con GR24 e domani alle 13 con Effetto Giorno. Una buona giornata da Simone Spezia. Dove c'è un idraulico, lì dove c'è un medico, lì dove c'è un professionista, lì serve la carica di My Business di 3. La ricaricabile Unlimited per partita IVA. E tu, sei pronto a diventare Unlimited? Scegli My Business Unlimited, la ricaricabile che rende straordinaria ogni impresa. Con minuti e sms illimitati, 2 giga di internet veloce a soli 20 euro al mese senza tassa. Fino al 31 ottobre con carta di credito SDD e impegno di 24 mesi. Per info 3.it o i 3 store. Nel laboratorio poltrone sofà? Tranquillo, quando arrivi a casa del cliente. Mauro, con chi parli? Ah, buongiorno Sabrina, sto dando gli ultimi consigli a questo divano. E lui ti ascolta? Ah, se non fai il suo dovere non esci di qua. In poltrone sofà, il metaprezzo su Accalide con Penisola, Mircole con letto, Aleni in vera pelle e Nirio a 3 posti termina questa domenica. Fai in fretta, vieni in negozio a scegliere il tuo divano preferito. Avevi ragione, ha fatto sì col bracciolo. Poltrone sofà, gli artigiani della qualità. Hai sentito l'ultima novità? La Banca Popolare di Vicenza ha creato un nuovo servizio POS a canone zero, anche senza conto corrente, per artigiani, commercianti, piccole imprese e liberi professionisti. Si possono accettare pagamenti su smartphone o tablet usandoli come POS. Possibile? Sì, con Banca Popolare di Vicenza. Tradizione e futuro. Messaggio promozionale, offerta valida fino al 15 ottobre 2014. Accrediti POS a scelta su carta prepagata o su conto corrente. Fogli informativi in filiale e sul sito. In azienda i file, scrivili come vuoi, con la K li trovi subito. K Files, la soluzione Kalian per conservare documenti e fatture per la pubblica amministrazione. K Files è un adempimento, diventa un vantaggio. Chiama l'800 199 983 o vai su documentisicuri.it. Pronto, Italo, buongiorno. Buongiorno, questo sabato vorrei regalare alla mia ragazza un weekend romantico a Venezia. Quale soluzione mi suggerisce? C'è l'offerta Vado e Torno speciale sabato. E senta, se io per lavoro dovessi anche andare a Milano? Le consiglio l'offerta Andate e Ritorno in giornata, così è più comodo e la sera torna a casa. Quando dovrebbe partire? Questo sabato. E la sua ragazza? Ah no, lei va a Venezia. Ma no! Per lavoro o per piacere, viaggiare con Italo è sempre più facile, comodo e vantaggioso. Scopri tutte le offerte su italotreno.it o chiama Pronto Italo allo 06 07